24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi le raccomandazioni economiche della Commissione europea ai Paesi membri, le prime nella storia dell'Unione. Ci soffermeremo in particolare su quelle relative all'Italia. Continueremo ad occuparci anche del batterio killer con le proposte di indennizzo avanzate da Bruxelles e vi informeremo dello stato dei negoziati della Croazia per l'ingresso nell'Unione. A chiudere i riflessi a livello europeo ed internazionale dello scandalo calcio scommesse in Italia. La Commissione europea considera credibile fino al 2012 il piano di consolidamento dei conti pubblici predisposto dall'Italia per il periodo 2011-2014 e invita il governo a varare, come promesso, ulteriori misure entro ottobre affinché il livello molto alto del debito imbocchi un percorso stabile di riduzione. Qualsiasi risorsa aggiuntiva deve essere destinata alla riduzione di deficit e debito. Queste alcune delle principali raccomandazioni rivolte all'Italia da Bruxelles e contenute nel documento approvato ieri a Strasburgo dall'esecutivo comunitario. Le raccomandazioni della Commissione europea hanno ovviamente aperto il dibattito politico nella penisola. Sentiamo allora il sottosegretario all'economia Luigi Casero. Ma noi abbiamo mantenuto gli impegni presi, manterremo gli impegni presi in Europa con quei limiti stabiliti che porteranno al pareggio di bilancio entro il 2014. Questo non vuol dire che non possono essere fatte delle politiche, sempre salvaguardando i numeri complessivi di bilancio, delle politiche di sviluppo e una manovra fiscale, una semplificazione e riduzione delle tasse è forse la migliore politica di sviluppo che può essere fatta, che il Paese necessita. Tutto bisogna comunque, deve stare nella cornice, dicevo, della salvaguardia dei numeri complessivi di bilancio, quindi l'Europa non deve temere nulla. E ascoltiamo ora l'opposizione, Enrico Letta del PD. Bruxelles chiede il conto all'Italia delle scelte non fatte in questi 3 anni. E questo conto è un conto salato per gli italiani, perché viene fuori che il governo dovrà fare una manovra pesante e questa manovra pesante durerà a lungo nei suoi effetti recessivi. Perché, come appunto si evince dalle parole di Bruxelles, sarà una manovra di particolare pesantezza. Quello che chiediamo al governo è quali sono le misure per la crescita che ha intenzione di mettere in campo, perché una manovra come questa, come quella che si prefigura, senza adeguate misure per la crescita, è una manovra che uccide il cavallo. L'emergenza batterio killer. La Commissione europea ha proposto di sbloccare aiuti per circa 150 milioni di euro in favore dei produttori di legumi e frutta comunitari colpiti dagli allarmi legati alla diffusione dell'epidemia. Ma il ministro dell'agricoltura italiano Saverio Romano teme che questi aiuti possano essere insufficienti. Sentiamo Romano. 150 milioni temo non bastino per questa emergenza. Intanto perché non possiamo risarcire soltanto il 30% del prodotto ritirato, bisogna risarcire molto di più. Ma cosa c'è dietro a tanti annunci sul batterio, poi rivelatisi sbagliati? Prima i cetrioli, poi i germogli di soia. Dalla Germania, Beda Romano al microfono di Anna Migliorati. Non è facile per chiunque cercare di capire le origini di questa infezione batteriologica e quindi i tedeschi hanno evidenti difficoltà. Credo che ci siano però 2 aspetti che probabilmente complicano le cose, sia per la Germania che per i propri vicini, che per i vicini europei. Il primo aspetto è che questo paese è un paese federale dove la sanità è un compito regionale. Questa infezione batteriologica riguarda almeno 3 regioni del paese, la città-stato di Amburgo, la Bassa Sassonia, lo Schleswig-Holstein e probabilmente anche Brema. E quindi negli ultimi 10 giorni tutte le istituzioni pubbliche di queste 4 regioni hanno fatto conferenze stampa, parlato al pubblico, dato interviste, con il risultato che c'è stato molta cacofonia. A questo naturalmente si aggiunge il fatto che anche il governo federale ha un proprio ministero per la salute. E insomma, troppi a parlare e troppi a dare indicazioni per certi versi contraddittorie. E poi credo che ci sia un secondo aspetto che è un po' più un aspetto sociale e culturale tedesco. La Germania detesta le incertezze e questo è un momento di grande incertezza, non riescono a capire dove proviene questa infezione batteriologica e nella e nella totale incomprensione di questo mistero il Paese ha evidenti difficoltà a gestire l'incertezza. Quindi ci troviamo in una situazione in cui, come dicevo prima, tutti parlano e non si sa granché su quello che sta avvenendo, e naturalmente ci sono le pressioni dei giornali perché si trovi rapidamente una soluzione. Questo fa sì che in più di una circostanza sono stati lanciati degli allarmi che poi si sono rivelati inesatti. E ora la pagina economica con la borsa. Scivola in borsa la Popolare di Milano in una giornata dai due volti per le banche quotate a Piazza Affari, penalizzati i titoli degli istituti di credito che stanno per mettere mano ad aumenti di capitale, premiate invece Intesa San Paolo più 2% che ha completato la prima fase della ricapitalizzazione da 5 miliardi. Per BPM però, che a fine mese darà il via libera ad un aumento di capitale da 1,2 miliardi, l'attenzione è stata legata ai rilievi di Banca Italia sulle sofferenze e sugli incagli iscritti a bilancio, un tema che ha fatto perdere oltre il 4% al titolo in borsa. Exploit invece per Telecom Italia Media, la controllata di Telecom proprietaria dell'emittente televisiva La 7. L'arrivo del conduttore Michele Santoro a partire dall'autunno e le ipotesi di nuovi soci in ingresso hanno spinto le azioni a più 17%. Da Radio Corp per Radio 24, Andrea Fontana. L'Unione Europea sta lavorando all'ipotesi di un coinvolgimento del settore privato, in particolare le banche, nella nuova operazione di salvataggio della Grecia. La conferma è giunta dal presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker e dal commissario agli affari economici Olli Rehn. Il Fondo Monetario Internazionale deciderà a fine giugno, a seguito del vertice europeo, se versare effettivamente la nuova tranche di aiuti ad Atene, ha precisato il capo missione nel paese ellenico. E i ministri delle finanze Ecofin si incontreranno martedì a Bruxelles per una cena di lavoro, lo ha confermato il commissario Rehn, indicando che nel corso della riunione informale si parlerà soprattutto di riforma della governance economica. L'Unione Europea mantiene alta la pressione sul regime libico di Muammar Gheddafi. I 27 Stati membri hanno deciso un ulteriore rafforzamento delle sanzioni già imposte contro entità e individui. Nel mirino in particolare sono finiti 6 porti libici. La Commissione europea è pronta a dare il proprio parere positivo alla chiusura dei negoziati di adesione della Croazia, indicando il luglio del 2013 come data di riferimento per l'ingresso di Zagabria nell'Unione. Siamo allo sport, calcio, preoccupazione per lo scandalo scommesse italiano che ha messo sotto sopra i massimi campionati di Serie A, B e Lega Pro. Questo anche a Losanna, sede del Comitato Olimpico Internazionale. Ma quanto sta accadendo non ostacolerà la corsa olimpica di Roma 2020, dichiara Radio 24 il vicepresidente del CIO Mario Pescante, lo ha intervistato Dario Ricci. Per ora quello che si sta facendo è quello di allertare soprattutto le legislazioni nazionali, che lei sa che in Inghilterra si scommette su tutto praticamente e non ci sono legislazioni che ci difendano. Allora si è fatto ricorso all'Unione Europea per cercare appunto di limitare l'aggressione delle scommesse. Per carità, ci sono anche scommesse che sono non solo legittime ma regolarmente gestite. Però il rischio di inquinamento è forte, fortissimo. Timori che questo scandalo possa in qualche modo offuscare o ostacolare la corsa olimpica di Roma verso i giochi 2020? Ma francamente proprio non ritengo. Lei pensi che c'è la Germania che ha avuto vicende di questo tipo e non dissimili, che in questo momento sta concorrendo per un Olimpiadi invernali. Certo, non ci voleva, non ci voleva nel nostro paese, questo però non ci voleva, anche perché era un settore per il quale la gente ancora oggi cerca di trovare rifugio da tante vicende del nostro paese, e qui ci siamo dentro fino al collo. Per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo l'audizione del commissario agli affari economico-monetari Olli Rehn e del presidente dell'Eurogruppo Juncker in commissione economico-parlamentare sulla crisi greca. All'Europarlamento è previsto il voto sulla proposta di quadro finanziario pluriennale. Votazione anche sull'allargamento dell'area Schengen a Romania e Bulgaria. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia Mauro De Angeli. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.